L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini, seconda settimana del nuovo palinsesto di Radio 24. Vi ricordo, l'altro pianeta d'ora in poi va sempre in onda di sabato, va sempre in onda alle 14. Veniamo al tema del giorno, parliamo di Ecomondo, almeno in apertura, parliamo di questa fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile. Siamo ormai alla 18ª edizione della fiera e al suo interno siamo alla 3ª edizione degli Stati Generali della Green Economy. Tema centrale di quest'anno, lo sviluppo delle imprese della Green Economy per uscire dalla crisi italiana. Ed è qui che CONAI ha presentato lo studio con cui ha valutato le ricadute occupazionali ed economiche che nel nostro paese potrebbe avere il raggiungimento degli obiettivi europei al 2020 sui rifiuti, quindi riciclo del 50% dei rifiuti urbani e domestici. CONAI, lo ricordiamo, è il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 1 milione di aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. Walter Facciotto, il nostro ospite, è direttore generale di CONAI. Abbiamo voluto in qualche modo cercare di quantificare quale poteva essere la ricaduta economica e occupazionale del settore della gestione dei rifiuti, tenendo anche conto di quelli che sono gli obiettivi che sono stati stabiliti già dalla direttiva rifiuti al 2020, ma anche i nuovi obiettivi che a livello europeo si stanno profilando, che parlano addirittura di obiettivi del 70% al 2030 di riciclo di rifiuti urbani, per arrivare poi a ulteriormente incrementare questo riciclo per quello che riguarda per esempio il packaging all'80% nel 2030. Senti, io le devo chiedere però a che punto è l'Italia in questo, perché gli obiettivi, se addirittura sono al 70%, dobbiamo sapere da dove partiamo, insomma. Certo, allora tenga conto che questo che lei ha, la domanda che lei mi ha fatto è una domanda importante, perché noi oggi siamo in grado di calcolare quella che è mediamente la raccolta differenziata urbana, che è arrivata a circa il 40% del totale dei rifiuti prodotti, che sono, mi pare, oltre 30 milioni di tonnellate complessivamente, quindi tutti i rifiuti urbani, quindi tutte le merci logiche dei rifiuti urbani. Quindi partiamo da questo dato. Questo dato significa 40% di raccolta differenziata. Il riciclo, che è poi l'obiettivo finale, perché è rendere il materiale a disposizione nel ciclo produttivo, sarà sicuramente qualcosa di meno, considerando almeno un minimo di scarti. Quindi voglio dire, siamo direi abbastanza lontani da questi obiettivi che devono essere raggiunti in un tempo che è relativamente breve. Certo, chiarissimo, purtroppo sì, cioè nel senso che la notizia non è delle migliori, però comunque lo studio ci dimostra invece che se lavoriamo seriamente possiamo anche ottenere dei buoni risultati, appunto, come diceva, sul fronte economico e sul fronte occupazionale. Sì, infatti lo studio parte da questa base, diciamo, e immagina due scenari, uno teorico e uno prudente. Lascerei perdere quello teorico, perché significherebbe che tutti raggiungano l'obiettivo del 50% di riciclo al 2020. Allora questo è uno scenario che a nostro avviso non è realizzabile. Se consideriamo invece lo scenario prudente, la quantificazione che noi abbiamo dato di ricadute economiche dal 2014 al 2020 porterebbe a circa 8 miliardi di euro di ricadute economiche positive, con un valore aggiunto complessivo, diciamo, di 2,3 miliardi di euro in questo periodo di tempo. Quindi questo è per quello che riguarda la ricaduta economica. Le posso anche dare uno split su questo dato, cioè per quello che riguarda l'incremento dei volumi di affari dell'intera filiera, dove parliamo dalla raccolta differenziata fino al riciclo e compostaggio, avremo nello scenario prudente un incremento di 6,2 miliardi, a cui si aggiungono gli investimenti in infrastrutture, che è un'altra voce, pari a 1,7 miliardi. La somma fa il dato che le ho dato prima, cioè di 8 miliardi di euro. Passando invece all'occupazione, a questo punto anche qui abbiamo immaginato due scenari, quindi uno teorico e uno prudente. Lascerei anche qui parte quello teorico per quello che riguarda sia gli addetti, cioè l'incremento degli addetti operativi in tutta la filiera del riciclo, più gli addetti che sarebbero necessari per il funzionamento degli impianti. La somma quindi di queste due voci darebbe un incremento di circa 89.000 posti di lavoro. Che non è poca cosa, ecco. Che non è poco, considerando la situazione generale. Questo è uno dei settori, quello del riciclo, che oggettivamente risente di meno di quella che, rispetto ad altri settori, risente di meno della crisi generale. Dunque, le chiedo un'ultima cosa, sì, che è: perché non si riesce a puntare su questo settore che tante soddisfazioni potrebbe darci? La motivazione è una motivazione, da un certo punto di vista, politica e poi organizzativa. Allora, noi abbiamo attualmente un'Italia praticamente a tre velocità, cioè il nord, anche nel settore degli imballaggi, ma globalmente, che è a livelli europei in termini sia di raccolta che di riciclo e recupero, non solo degli imballaggi ma globalmente. Abbiamo un centro che si colloca un po' a metà il sud, che purtroppo è molto in ritardo. Ecco, questo dimostra che, primo, è una questione politica. Cioè, nell'agenda del sindaco, dei comuni italiani, soprattutto del sud, lo sviluppo della raccolta differenziata a che punto sta? E in secondo luogo è un problema organizzativo. Quindi avere uno strumento, quindi avere un'organizzazione in grado poi di svolgere il servizio in modo corretto, perché altrimenti tutto lo sforzo anche che viene richiesto ai cittadini nel separare in casa correttamente i rifiuti poi viene vanificato. Era Walter Facciotto, direttore generale di CONAI, lo ringraziamo ancora una volta, lo sentiamo spesso noi nel corso dell'anno, perché CONAI appunto ha molte iniziative e studi da comunicare. Restiamo a Rimini, restiamo a Ecomondo, con un altro consorzio però che si occupa di rifiuti non compresi nel sistema CONAI, perché CONAI si basa sull'attività di 6 consorzi rappresentativi di altrettanti materiali, ovvero acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro, e si occupa CONAI di imballaggi. Adesso invece parliamo di rifiuti organici. Il CIC è il Consorzio Italiano Compostatori e a Rimini ha presentato tra l'altro i dati sulla raccolta dell'organico in Italia, e sono dati buoni, ci dice Michele Giavini, consulente del CIC. Certo, i numeri di compostaggio in Italia sono in continuo incremento. Abbiamo ormai raggiunto 1.500.000 tonnellate di compost prodotto, a partire da 5.200.000 tonnellate in Italia di verde e umido da raccolta differenziata. È una cifra sicuramente importante ed è un caso di eccellenza ormai a livello mondiale, direi. Abbiamo superato anche il livello di intercettazione pro capite, soprattutto dell'umido, i nostri scarti di cucina. Paesi come la Germania e altri che storicamente fanno questa raccolta in modo un po' diverso da noi. Noi abbiamo un'eccellenza sicuramente in termini di quantità e anche qualità dell'umido raccolto e compostato. So che una buona fetta, diciamo, di questi numeri arrivano dalla città di Milano, che è partita da poco tempo ma che ha guadagnato posizioni rapidamente. Questo, diciamo, che è una dimostrazione del fatto che si può fare. Certo, si può fare, i numeri arrivano in una settimana, direi, anche molto velocemente, perché appena si introduce la raccolta dell'umido, la città di Milano è stata avviata in 4 momenti diversi, però in ognuno di quei 4 quartieri si sono raggiunti numeri di 90 kg per abitante anno, che sono sicuramente molto elevati, vuol dire che la cittadinanza ha partecipato molto bene, c'è stato anche un sondaggio di gradimento e stato un ottimo riscontro, e quindi vuol dire che questo sistema funziona sia nelle grandi città. Milano è diventata praticamente in concorrenza con San Francisco, la città mondiale sopra il milione di abitanti che raccoglie più umido di cucina a livello domestico. Si può fare quindi nelle megacittà, così come nelle zone rurali e nei paesi meno densamente popolati, e questo è sicuramente un grosso riscontro importante che dà sostegno alle politiche nazionali e anche europee, che prevedono ormai con le nuove direttive l'estensione della raccolta dell'umido in modo obbligatorio a tutti gli stati membri. Questo significa anche che a volte ci si nasconde dietro a un dito, si dice che è difficile, che non ce la si può fare, ma in realtà non è così, e l'esperienza di chi è passato attraverso la raccolta dell'organico è positiva. L'altro pianeta. Di nuovo insieme, con noi c'è Michele Giavini, che è un consulente del CIC, cioè il consorzio dei compostatori italiani, e vogliamo appunto sapere da lui che cosa succede alla raccolta dell'organico, che cosa si fa con i rifiuti organici. Il primo dubbio che ha il cittadino mediamente male informato è che poi tutto si mischi di nuovo e finisca tutto in discarica. Questo non è assolutamente vero, non riguarda solo l'umido, ma anche carta, plastica, tutte le altre cose. Come no, siamo malfidenti per natura in Italia. Esatto. Noi appunto come consorzio compostatori certifichiamo il fatto che questo umido venga compostato e si trasformi quindi in un terriccio di qualità che viene venduto come ammendante al posto di torba che viene importato da paesi esteri e così via. Sicuramente c'è un ruolo molto importante nella qualità della raccolta, quindi il cittadino deve sapere che qualsiasi impurezza che mette nella raccolta differenziata provoca soprattutto dei costi aggiuntivi per rimuovere queste impurezze, plastiche, sacchetti non compostabili. Comunque l'umido non diventa solo compost e terriccio, sempre di più negli ultimi anni diventa biogas per produrre energia rinnovabile. Questo è un po' il prossimo futuro che ci aspetta. Come si passa dal compost al biogas? Tendenzialmente gli impianti si chiamano di digestione anaerobica, sono impianti come sono già sviluppati da tanto tempo in settore agricolo, in cui la degradazione avviene in assenza di ossigeno, quindi si genera un gas molto ricco di metano. Ecco, questo biogas poi può essere appunto o bruciato in motori per produrre energia elettrica e termica, oppure, e questa è la novità che sarà nei prossimi anni, essere trasformato in biometano, quindi un metano di origine completamente naturale e rinnovabile. Ok, allora quindi abbiamo detto o ne facciamo energia elettrica oppure in futuro probabilmente ne faremo del biometano. Esatto. Per uso che vada a sostituire quello non bio, diciamo così? Sì, esatto, quello del gas naturale che ci arriva dalla Russia e così via, e ci crea così tanti problemi. Così tanti problemi, no, è importantissimo. Quindi ci possiamo alimentare le automobili, per dire? Sì, esatto, e non solo. Sono fatti degli studi che riguardano un po' questo tipo di utilizzo. Noi abbiamo fatto in particolare un calcolo. Per raccogliere rifiuti ovviamente servono mezzi, dei mezzi di raccolta, e calcolando i chilometri annui che servono per raccogliere i rifiuti, calcolando il biometano che si può produrre dalla frazione umida del rifiuto, noi riusciamo a coprire proprio esattamente il fabbisogno di carburanti di tutti questi mezzi. Se in Italia tutti raccogliessero l'umido e si inviasse a digestione anaerobica per fare del biometano, produrremo abbastanza metano da alimentare proprio le flotte che raccolgono i rifiuti. Questo è un perfetto esempio di economia circolare. Ma è fantastico, certo, un'economia circolare perfetta, per cui il camion della spazzatura si muove con la spazzatura. Con la spazzatura, esatto, trasformata in carburante. Ricordiamo che poi c'è un obiettivo proprio europeo del 10% di carburanti convenzionali, quindi gasolio e benzina, devono essere di origine bio entro il 2020. È appena uscito anche un decreto nazionale che certifica questo obbligo. Adesso siamo sotto, comprendendo anche il bioetanolo e altri biocarburanti, siamo molto sotto questo obiettivo. Quindi il biometano da rifiuti urbani, dalla frazione organica differenziata dei rifiuti urbani, può dare un ottimo contributo. Come al solito manca qualche piccolo tassello in Italia, manca per esempio una norma tecnica che permette fisicamente l'allaccio di chi produce questo biometano alle reti del metano, quindi alle tubazioni tradizionali, siamo forse addirittura d'arrivo. C'è l'autorità dell'energia elettrica e del gas che ha messo un documento in consultazione. Insomma, si spera che entro un paio di mesi si arrivi un po' alla definizione di quello che manca per poter immettere in rete il biometano. Da un punto di vista invece della realizzazione di questi impianti biodigestori, si dice anche al plurale, sì, biodigestori, sono impianti diciamo a forte impatto ambientale che uno può non desiderare avere vicino. Io credo di ricordare di no da alcune esperienze in Emilia-Romagna, però insomma, vorrei sentirlo dire da chi ci No, lavora anche su questi esatto. temi. Diciamo, sì, questo è un punto molto importante. I primi impianti di compostaggio tradizionale di 15-20 anni fa venivano magari realizzati all'aperto con pochi presidi ambientali e davano problemi di odori. Un impianto di digestione anaerobica invece è completamente escluso, proprio per definizione deve essere sigillato. È vero anche che contro questi impianti ci sono molti movimenti, soprattutto riguardo a quelli agricoli, che trasformano il mais, no? Prima utilizzato per uso agricolo, adesso utilizzato per uso energetico. Insomma, di solito mai contro la digestione anaerobica da umido da raccolta differenziata, che è appunto un rifiuto. Però non è un rifiuto, diciamo, dell'impianto in sé, ma magari della logica che può stare dietro ad alcune scelte, Esatto, ecco, mi sembra di capire un po'. sì. Grazie ancora a Michele Giavini, consulente, ricordo, del Consorzio Italiano Compostatori, che ci ha tra l'altro introdotto l'argomento del biogas, di cui continueremo a parlare tra poco. Massimo Marino è direttore di Life Cycle Engineering. Innanzitutto però, Marino, noi le chiediamo che cosa fa Life Cycle Engineering. Sì, buongiorno. Noi siamo una società di consulenza che da una quindicina di anni ci si occupa di sostenibilità prevalentemente ambientale, quindi aiutiamo le aziende a migliorare il loro rapporto con l'ambiente e a comunicare le prestazioni e i miglioramenti ambientali che hanno raggiunto nel frattempo. Ecco, con lei parliamo di impatto ambientale della carne, arriveremo da qui anche al biogas. Negli ultimi anni si è spesso messa la carne all'indice per l'impronta ambientale provocata dalla produzione delle risorse che sono necessarie per nutrire i tanti animali che vengono allevati, ma anche per le deiezioni degli animali stessi. Come pensate si possa ridurre l'impatto ambientale dell'allevamento? Cosa dicono i vostri studi? Per quanto riguarda la carne, diciamo partire da quali sono gli impatti prevalenti nella filiera delle carni, dicendo che di fatto sono sostanzialmente due: sono la parte di produzione degli alimenti, quindi tutta la parte diciamo agricola, e la parte di gestione delle deiezioni, che è una parte diciamo abbastanza rilevante soprattutto nelle filiere della carne bovina. Per quanto riguarda la riduzione della parte agricola, certamente le pratiche agricole un pochino più sostenibili, quindi utilizzo corretto di fertilizzanti, di acqua, sono fasi che in qualche modo possono aiutarci a ridurre gli impatti. Per quanto riguarda invece la fase di gestione delle deiezioni, quindi il letame, certamente la fase di, diciamo, l'opportunità di poter utilizzare il letame nella produzione di biogas, certo, e quindi nella conversione energetica, è diciamo, un processo certamente di interesse. Di interesse è anche fattibile a quanto ho capito, cioè già esistono queste esperienze, non stiamo parlando di futuro. No, assolutamente esistono. Diciamo che nella filiera della carne bovina è una pratica abbastanza tipica diciamo, negli allevamenti più strutturati. In altre filiere, come quella della carne suina e della carne avicola, ci sono un pochino più di problemi legati diciamo, ad aspetti tecnici, però diciamo, è comunque una pratica che si cerca di studiare e di mettere in atto. Però diciamo, certamente nella carne bovina e quindi nella gestione dei letami bovini è una pratica molto diffusa. Che tra l'altro, quanto appunto leggevo, dà anche dei frutti, cioè non stiamo parlando di piccole quantità, ma di soddisfazioni concrete, ecco, insomma. Sì, Poi. soddisfazioni concrete sia in termini di produzione di energia e sia anche da un punto di vista economico, perché poi ovviamente sono tutte attività in qualche modo supportate da incentivi pubblici, perché di fatto stiamo parlando di energie rinnovabili, quindi di una quantità di energia che si riesce a produrre senza utilizzare Ma non stanno in piedi solo grazie agli fonti. incentivi pubblici, mi No, auguro. assolutamente no, assolutamente. Però secondo me sono impianti che magari richiedono investimenti rilevanti, perché magari sono impianti da qualche milione di euro. Ovviamente l'incentivo pubblico è utile per andare a diciamo, a far partire la macchina, però poi ovviamente sono impianti che stanno in piedi da soli. Nella dieta la carne ultimamente è stata spesso messa all'indice, ci sono stati insomma campagne di vario tipo. Mi pare di capire dal vostro ragionamento, che lei poi ci spiegherà, che come sempre è est modus in rebus. Sì, il punto è questo, che è indubbio che la carne, se noi prendiamo un chilogrammo di carne e lo paragoniamo a un chilogrammo di insalata, per ovvie ragioni, anche che diciamo non bisogna essere super tecnici per capirli, ha un impatto maggiore, no? Perché ovviamente ho dei passaggi all'interno della filiera agroalimentare di un certo tipo. Però il punto è questo, che se noi in realtà prendiamo la carne e la andiamo a inserire in una dieta equilibrata e quindi con dei consumi abbastanza ridotti, l'impatto ambientale complessivo che la carne genera non è poi così rilevante, perché appunto moltiplichiamo un impatto alto per una quantità molto, molto modesta. E quindi di fatto è corretto dire che la carne impatta se ragioniamo per chilogrammo, ma se poi noi la inseriamo in una dieta equilibrata, di fatto diciamo possiamo essere tranquilli che l'impatto ambientale che generiamo non è poi così rilevante. Per queste e per altre questioni che gli ascoltatori potrebbero desiderare o di discutere, di approfondire, è stato creato dalle tre principali associazioni di categoria, cioè Assica, Assocarni e Una Italia, un sito internet, e lo diciamo, l'indirizzo è carnisostenibili.it. Lì si trovano anche gli approfondimenti sulla clessidra alimentare, che è un po' in contrapposizione alla piramide alimentare di cui un po' tutti nella vita abbiamo sentito parlare, vuoi a scuola, vuoi sulla stampa, voi dal medico. Lei è in grado un po' di riassumerci, di spiegarci, rappresentarci questa clessidra alimentare? Allora, per chi conosce la piramide alimentare ha in basso gli alimenti che bisogna mangiare di più e in alto gli alimenti che bisogna mangiare di meno, tra cui le carni. Questa piramide alimentare è stata moltiplicata per, diciamo, gli impatti ambientali di ogni singolo alimento, impatti ambientali per chilo di alimento, e quindi cosa viene? Viene fuori che praticamente gli impatti ambientali degli alimenti che bisogna mangiare di meno, quindi ad esempio le carni, essendo molto alti, diciamo, portano alla parte alta di questa clessidra a essere larga più o meno quanto la parte bassa, che è la parte invece in cui dove si trovano gli alimenti che bisogna mangiare di più e hanno un impatto più basso. Quindi quello che emerge è che in pratica gli alimenti come le carni e gli alimenti come la frutta e la verdura in una settimana comportano un impatto dello stesso ordine di grandezza, proprio in virtù del fatto che hanno quantità e diciamo impatti ambientali diversi. Grazie anche a Massimo Marino, direttore di Life Cycle Engineering. Vi ricordo invece l'altro pianeta @radio24.it. da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto e appuntamento a sabato prossimo alle 14:00.